si ricomincia a parlare del rapporto fra Papa Pio XII e il nazismo e lo sterminio degli ebrei. E nel riferire del film che Costa Gavras sta girando in proposito, film che a quanto pare si intitolerà Amen, appropriatamente, nel riferire in proposito il Corriere della Sera, grazie alla firma di Maurizio Porro, fornisce ancora una volta l'esempio più nitido di come la stampa e con essa la cultura che rappresenta si stia vilmente adattando al fascismo di attualità, preparando al contempo il fascismo prossimo venturo. Non so cosa dicano e su quali nuovi documenti si basino i libri che vengono pubblicati in questi giorni, ma su Pio XII e più in generale sulla Chiesa Cattolica in rapporto al nazismo e allo sterminio degli ebrei so cosa dicono vecchi libri e vecchi documenti inoppugnabili, e quel che dicono è già sufficiente per farsi un'opinione. Mi proverò a porre ordine nell'argomento. Che la Chiesa abbia aderito al fascismo e che gli abbia dato una mano non indifferente è noto. Come è noto quel pensiero che Pio XI espresse agli allievi dai professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 13 febbraio del 29, due giorni dopo la firma del concordato con lo Stato. Mussolini, a parere del Papa, era l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Perché? Perché era un uomo che non aveva le preoccupazioni della scuola liberale. Questa adesione fu tale che anni dopo, nel 1935, Civiltà Cattolica giustificava l'aggressione fascista in Africa dicendo che l'Etiopia è l'esempio più tipico dell'imputridimento morale e del decadentismo intellettuale di un popolo cristiano staccato da Roma per lo scisma e l'eresia e rimasto chiuso ad ogni influsso, anche indiretto, del cattolicesimo nelle istituzioni civili che da esso derivano presso i popoli europei. Ed è così che, come disse il cardinale Ildefonso Schuster commemorando a Milano la marcia su Roma, è così che il vessillo d'Italia sui campi di Etiopia reca il trionfo della croce di Cristo. Gli stessi vescovi di Roma, d'altronde, pur di fronteggiare la triade malefica costituita da protestantesimo, massoneria e bolscevismo, sono stati pronti a sostenere perfino la campagna mussoliniana del loro alla patria. Poi Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti che batteva la gran cassa antiebraica fin da prima del secolo, nel 1928 mette in guardia dal pericolo giudaico che, a loro modo di vedere, minacciava il mondo intero per le sue perniciose infiltrazioni o ingerenze nefaste. Tanto è vero che anni dopo, nel 1937, la stessa rivista scrive che per conquistare il dominio del mondo, il giudaismo si serve delle due potenze più efficaci di dominazione del mondo. L'una materiale, l'oro, e l'altra l'internazionalismo. Quanto all'oro, già lo ha in massima parte in mano, gli resta ad accaparrarsi l'internazionalismo. Non solo. Scrive anche che la mentalità giudaica è un pericolo permanente per il mondo. Non solo. Nel 1938 scrive ancora che non si può dimenticare che gli ebrei medesimi hanno richiamato e richiamano tuttora su di sé le giuste avversioni dei popoli. Non infierisco e dunque non ricorderò le vergognose affermazioni dell'eminente psicologo fondatore dell'Università Cattolica Agostino Gemelli, di cui anni or sono abbiamo già parlato a sufficienza. Non ricorderò neppure le varie espressioni di giubilo emesse dalla Chiesa per salutare la vittoria del fascismo di Franco in Spagna. Innanzi Allora, innanzi a queste premesse si può ragionare di Papa Pio XII, del suo atteggiamento verso il nazismo e delle sue responsabilità nei confronti dello sterminio degli ebrei. Nunzio apostolico a Monaco di Baviera, Eugenio Pacelli si trovò nel 1919 in mezzo alla rivolta spartachista. Nonostante se la sia cavata un po' per la buona sorte e un po' per l'indecisione altrui, uscì da questa esperienza con quella feroce convinzione anticomunista che non sarebbe più venuta meno. Diventa papa nel 39 e di certo non lo attendono giorni facili. Scrive a Hitler che desidera rimanere legato da intima benevolenza al popolo tedesco, affidato alle sue cure. E dal diario di Galeazzo Ciano, su quei giorni veniamo a sapere di un incontro fra Ciano medesimo con Himmler, in cui costui dice che negli ambienti nazisti v'è simpatia per il nuovo pontefice e si ritiene possibile un modus vivendi. Sembra assodato che dei campi di concentramento e dello sterminio sapesse quel che c'era da sapere, ma tutte le sue pubbliche dichiarazioni, quando ci furono, rimasero all'insegna dell'ambiguità. Come dice Ernesto Rossi, in un libro che meriterebbe di essere donato ad ogni studente, dalla scuola media inferiore in su, un libro del 58 che si intitola Il manganello e l'aspersorio, come dice lui, mai durante la guerra si era udita una parola del Santo Padre contro il nazionalismo, mai una sua parola di condanna delle stragi dei polacchi e degli ebrei, né dei campi di sterminio, né di tutti gli altri raccapriccianti orrori di cui più di qualsiasi uomo politico Pio XII era a conoscenza, per i dettagliati rapporti che riceveva dal clero dei paesi belligeranti e dagli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Maurizio Porro dice che Costa Gavras riprende le polemiche contro Pio XII del testo ormai quarantenne del tedesco Rolf Ockhut, Il Vicario, recitato nelle piazze sessantottine da Gian Maria Volontè. E così dicendo, diciamo che svalorizza subdolamente il termine di riferimento insieme ai suoi contenuti. Precisiamo allora che Ockhut, drammaturgo tedesco, niente affatto di sinistra peraltro, pubblicò il vicario nel 1963 e nel documentarsi a quanto pare ha potuto usufruire della collaborazione non tanto di pericolosi estremisti rossi ma dell'ex rettore della Chiesa dell'Anima di Roma, Monsignor Udal. A Roma quest'opera teatrale venne rappresentata l'11 febbraio del 1965 e vietata immediatamente con intervento della polizia su richiesta del Vaticano, adducendo la motivazione che il testo avrebbe violato il carattere sacro della città. Porro e il Corriere della Sera dunque giocano sporco, mentono sapendo di mentire. Dicendo che il testo è quarantenne, vorrebbero screditarne la base documentale, come se potessero essere prodotti oggi nuovi documenti che facessero dire al Papa le parole che non ha detto ieri. E dicendo che veniva recitato da Gian Maria Volontè nelle piazze sessantottine, ne alterano la cronologia in modo che l'evento finisca in quel calderone del 68 in cui, allo scopo di rifare una storia patria che si accordi armoniosamente con la presente svolta autoritaria, si butta quotidianamente più marciume possibile. Come dire che se un'accusa è mossa nel 68 è già in quanto tale destituita di ogni fondamento. Non si tratta allora neppure di una semplice volgare falsificazione storica, ma di un algoritmo preciso per ricodificare il pensiero. nell'improbabile, nell'improbabile fortunatissimo caso in cui costoro dovessero passare alla cassa dei deboli e degli oppressi e venisse loro chiesto di pagare caro e pagare tutto quel che scrivono, bisognerebbe ricordarsi di qual è stata l'entità del delitto consumato.